Questo era il grande Harlan T. Bobo con Hamster in a Cage, tratto dal suo ultimo album, il suo terzo su Goner Records, intitolato Sucker, Harland Bob è stato di recente in tour anche in Italia, ma soprattutto in Europa, un lunghissimo tour di circa 5 o quasi 6 settimane in quasi tutti i maggiori paesi d'Europa, 3 date anche in Italia. E sembra aver riscosso molto molto successo. Io l'ho visto a Munster in tour con Mojomatics, ha fatto uno show da paura. E vi consiglio questo Sucker, il suo terzo disco pubblicato dalla Goner Records. ...99.6 di Radio Onda d'Urto, come ogni martedì sera Franz cerca di allietarvi con il meglio e il peggio del rock and roll underground. Abbiamo sentito Harland T. Bobo, prima di lui Vermilion Sands con I'm a Little Mixed Up, tratto dal loro nuovo o recentissimo 12 pollici pubblicato dalla Sacred Bones, un'etichetta americana di culto. Prima dei Vermilion Sands, i Cappuccini di New, hanno ottimo gruppo garage, rock and roll, folk e quant'altro italiano, o meglio, metà italiano, una ragazza che viene da Palermo, metà francese, con un pezzo tratto dal loro ultimo album uscito su Jet Cune, un'etichetta romana, e il pezzo si intitolava The Robbery. Prima dei Cappuccini di New, i Kidnappers con Spanish Girls, tratto dal loro primo e unico 7 pollici pubblicato ormai anni fa dalla Saxon Records, un'etichetta canadese. Questo pezzo Spanish Girls, che forse è uno dei loro poppettosi, è stato poi inserito nella ristampa del loro primo album pubblicato su Alien Snatch su CD, www.myspace.com/kidnappers per saperne di più. Tra l'altro il trio tedesco sarà di ritorno in Italia a fine settembre per promuovere il loro terzo album su Alien Snatch Records, che aspettiamo impazienti. E prima dei Kidnappers abbiamo iniziato questa trasmissione con Chuck Berry con Sweet Little 16. Insomma, chiunque ama non può amare Chuck Berry. Tra l'altro questo pezzo qua era motivo di contenzioso con i Beach Boys, insomma negli anni 60, proprio perché sembrava che, o almeno è stato dimostrato che i Beach Boys hanno rubato questo pezzo, Sweet Little 16, copiandolo per Surfing USA, infatti è abbastanza simile. Chuck Berry poi è riuscito a vincere la causa e farsi fare i soldi dai Beach Boys. Mentre noi adesso ci andiamo ad ascoltare i Surfing Lunch, che proprio mentre state ascoltando questa trasmissione, che devo ammetterlo non è in diretta, perché io mentre state ascoltando il 99.6 di Radio Onda d'Urto sarò in tour con i Surfing Lunch, gruppo surf rock and roll inglese, che probabilmente mentre state ascoltando questo martedì sera si appresta a suonare alla terrazza live di Ospitaletto. Quindi se state ascoltando questa trasmissione, dirigetevi verso la terrazza live di Ospitaletto nella piazza delle Poste, e noi adesso andiamo a sentirci Surfing Lunch dall'Inghilterra su Radio Onda d'Urto. Grounded for the summer, a little sound. Having seem to mean anything. And it doesn't seem to mean anything. One summer of a suicide, another autumn to travel the skies. He hits news twice before he dies. And every evening when he gets home, to make his supper he'll eat it alone. His black shirt cries while his shoes get cold. It's just a dream he keeps having. It doesn't seem to mean anything. It's just a dream he keeps having. Feels lucky to have you here in his kitchen, in your chair. Sometimes he forgets that you're even there. It's just a dream he keeps having. And it doesn't seem to mean anything. It's just a dream he keeps having. Gave you money, I gave you Questi erano i Tokyo Sex Destruction dalla Spagna con Move, tratto dal loro ultimo album pubblicato dalla B-Core, intitolato The Neighborhood. Tokyo Sex Destruction, che erano tra l'altro ospiti di questo programma novembre scorso e che torneranno in Italia in occasione del Festival Beat il 4-5 luglio. Loro suoneranno il sabato insieme a Grave Trigger 5. E avranno anche altre date disseminate per lo stivale, che di cui vi renderemo conto settimana prossima. Prima di loro abbiamo sentito invece Radio Birdman con Didn't Tell the Man, storico gruppo, i Rolling Stones australiani, grandissimo gruppo australiano. Prima ancora i Wilco con Summer Thief, tratto dall'album Summer Thief, sono andato a vedere recentemente a Ferrara al teatro comunale di Ferrara, veramente un concerto splendido. Prima dei Wilco, i Mojo Matrix con Love Wild Fever, etichetta 7 pollici, il loro ultimo 7 pollici su Big Neck Records, etichetta americana. La settimana scorsa avevamo fatto sentire la B-side, ovvero quella che doveva essere la B-side di questo singolo, ma che però per un errore di stampa non è mai stata pubblicata, invece adesso vi abbiamo fatto sentire il lato A, che si intitola appunto Love Wild Fever. Potete trovare tutte le informazioni su myspace.com/TheMojoMatrix. Anche loro suoneranno al Festival Beat, questa volta il venerdì, di spalla ai Sonics. Prima dei Wilco, Mark and the Spice con Everything I Need, tratto dal loro primo album edito dalla Screaming Apple, etichetta tedesca. Loro sono un gruppo olandese, fanno dello splendido Netherbeat 60s Garage. www.myspace.com/markandthespice per saperne di più. Anche loro saranno di ritorno in Italia a fine luglio. Suoneranno allo Shout Festival in provincia di Verona, suoneranno anche una data qui nel Bergamasco a Brembo, e anche di questo vi sapremo dare tutte le notizie più dettagliate. Abbiamo invece iniziato questa carrellatona con i Surfing Lungs con Grounded for the Summer, tratto dal loro penultimo album intitolato Surf, Drugs and Rock and Roll, edito dalla Wild Punk Records, etichetta spagnolo. Loro sono inglesi, sono in tour in Italia proprio mentre state ascoltando questa puntata, che non va purtroppo in onda, di Radio BAM. Io sarò insieme ai Surfing Lungs stasera alla terrazza di Ospitaletto, quindi venite tutti lì. Domani invece saranno di scena allo Spazio 4 a Piacenza, giovedì al Surfer Joe Festival di Livorno, venerdì invece saranno di scena al Moz estivo a Montevarchi in provincia di Arezzo, sabato a Melzo al Gods of Punk, mentre domenica concluderanno le loro 10 date italiane a Villa d'Ossola al TT Twister Club. Il tempo già vola, andiamo a sentirci gli ultimi due pezzi di questa puntata. Dopo di noi Desert Caravan, adesso ci andiamo a sentire No Bunny con Boneyard, che passerà in Italia probabilmente a settembre, e concludiamo ancora con i Surfing Lungs con Where Young Men Go to Cry, solo per ricordarvi di andarli a vedere dal vivo e di sintonizzarvi ancora settimana prossima dalle 9 alle 10 qui sul 99.6 di Radio Onda Adulto per sentire un'altra mirabolante puntata di Radio BAM. Can't slow down. sometimes reality.